Ho talento. Scrivo grandi poemi. Ho talento. Scrivo grandi poemi. Volo come si deve. Ho talento, scrivo grandi poemi, da sola.